Tutti convocati di Carlo Genta. Buonasera a tutti, beh, mi sembra giusto anche oggi aprire in musica, nonostante ci sia una giornata di campionato da raccontare, una giornata che consegna di fatto lo scudetto alla Juventus, però mi sembra giusto ricordare un grande con Enzo Iannacci, naturalmente con una canzone... Quelli che vanno dallo specialista, non importa quale. Che tante volte abbiamo sentito a proposito di sport. Dottore, è un periodo che mi fa male la testa. Non si preoccupi, il periodo... Dottore, mi fa male. Enzo Iannacci, che come sapete se n'è andato, lo salutiamo così, me lo ricorderemo sempre, direi. Vi aspetto, siete tutti convocati oggi in diretta 800 24 00 24, messaggi SMS 349 238 6666, per commentare appunto questo turno prepasquale in cui la Juventus ha vinto 2-1 a San Siro con l'Inter, i gol dopo 3 minuti, una magnifica parabola di Quagliarella, partita indirizzata che la Juventus secondo me ha sempre, ma non secondo me, è oggettivo, ha tenuto sempre sotto controllo. In apertura di ripresa il gol bellissimo peraltro di Palazzi, un inserimento meraviglioso, ma è durato soltanto 6 minuti il pari dell'Inter, perché al 15° Matri, in anticipo su rientrante Samuel, una delle notizie di oggi, ha segnato su un cross dal fondo su cui gli interisti hanno protestato, perché il pallone rimesso in mezzo sembrava aver superato la linea, ma poi non era così. In realtà Paduina ha crossato questo pallone e Matri ha insaccato il gol del 2-1, che sigilla, a mio parere, lo scudetto per la Juventus. Si riapre invece per il Palermo la corsa verso la salvezza, perché è 2-2 a Genova nel confronto diretto tra Genoa e Siena, con i gol di Boriello in apertura al sesto, il pareggio al 43° del primo tempo di Emegara, quindi nella ripresa Siena in vantaggio al 7° su rigore con Rosina e pareggio al 26° di Jankovic. Questo perché si riapre la corsa verso la salvezza, perché la Roma invece perde 2-0 a Palermo, i gol nel primo tempo 21° Ilicic, 35° Miccoli su errori da matita blu della difesa romanista. Per il resto c'è lo 0-0 tra Cagliari e Sampdoria, risultato abbastanza scritto, così come lo stesso risultato tra Udinese e Bologna, e qui dicevamo anche nel GR la nota a margine, che poi tanto a margine non è, perché Di Natale di rigore ne sbaglia pochissimi, oggi lo ha fatto al 21° del primo tempo. Da sottolineare il ritorno alla vittoria della Lazio dopo un'eternità, in rimonta sul Catania dopo 5 minuti della ripresa segna Isco, e poi al 34° autorete di Legrottagli, al 36° rigore trasformato da Candreva. Anche qui il ritorno di un grande vecchio del nostro campionato, Miroslav Klose, che si è rivisto in campo nella ripresa. Quindi il Cagliari, in uno stadio vuoto, come sapete, Is Arenas, senza pubblico, chiuso per i ben noti motivi, proteste fuori dallo stadio, all'imbocco delle vie che portano allo stadio dei tifosi cagliaritani, finisce 2-0 per i rossoblù con i gol di Piniglia all'11° del primo tempo, girata molto bella, e al 39° su rigore nella ripresa Quadrado per la Fiorentina, appunto, finisce 2-1. 3-0 del Parma sul Pescara, che ormai di chance di salvezza ne ha poche o nessuna. Benalluana al 18° primo tempo, poi nel secondo Palette un grandissimo gol di Amauri, stop di petto e rovesciata, probabilmente con quello di Quagliarella ben più pesante, molto più pesante, il gol più bello della giornata. Questi dunque i risultati di cui parleremo insieme, vi ripeto: 8-0-0-24, 0-0-24. Alle 18 il Milan gioca a Verona con il Chievo. Questa sera alle 21 il Napoli in campo a Torino a chiudere questo turno prepasquale, su cui, manco a dirlo, De Laurentiis ha avuto da dire, protestandone, contestando, non si sa perché il sabato di Pasqua si è sempre giocato, è una consolidata tradizione. Bene, De Laurentiis ha detto: ma perché giocare il sabato di Pasqua quando potevamo giocare il giorno di Pasqua, addirittura lunedì o martedì, dopo che i giocatori sono stati in giro per il mondo? Sono cose che valgono per tutti, non solo per il Napoli, che è stata in pratica l'unica a lamentarsi, anche questa è una consuetudine. Ebbene, protesti De Laurentiis, ma il Napoli chiuderà il turno questa sera alle 21 a Torino, come è abbastanza normale. Allora, la classifica, e sentiremo poi anche le voci dei protagonisti, spero anche le vostre, vostri messaggi al 349-238-6666 come sempre. Classifica che dopo questa undicesima di ritorno dice: Juventus 68, Napoli, che appunto gioca stasera, 56, Milan 54 punti. In attesa di questo duello a distanza tra Milan e Napoli per il secondo posto, la Fiorentina perde il treno e resta a 51, la Lazio si riavvicina a questo treno, invece sarà quota 50, Inter e Roma ne hanno 47, Catania 45, Udinese 42, Cagliari, Parma 38 punti, Sampdoria, Bologna 36, Torino e Chievo 35, Atalanta 34. E secondo me queste squadre sono tutte salve. La lotta per la salvezza, anche qui c'è un bel fosso, insomma, tra la quintultima e le ultime quattro della classifica. Genoa 27 punti, Siena 26, il Palermo che torna in corsa 24, il Pescara che nel prossimo turno affronterà la Juventus 21 punti. Da sottolineare un altro episodio che farà molto discutere, sempre su Inter-Juventus, che si è chiusa con un'espulsione con l'espulsione di Cambiasso per un fallo criminale, secondo me, su Giovinco. Entrata orrenda, espulsione, parapiglia finale, Conte che scorta Cambiasso, che lo protegge dalle normali proteste dei compagni di squadra di Giovinco, su cui è stato fatto, ripeto, commesso questo fallo bruttissimo, e così si è chiusa tra le polemiche, che sono anche per rigori, rigorini, bracci e braccini, si è chiusa Inter-Juve. Tutti convocati. Non so se adesso gli interisti, mentre c'è Benedetta Acri in redazione, Pietro Lacorte in regia, sempre per la cronaca, siamo in diretta e vi aspettiamo, 800240024. Non so se gli interisti avranno voglia di buttarla sul fronte arbitrale prendendosela con Rizzoli. Ad esempio un messaggio di Mauro: perché non spiega come mai Chiellini può picchiare impunemente, oggi Rizzoli concedeva anche il mitra. Io ho guardato la partita e a me è sembrato abbastanza un dominio juventino, al di là di piccoli episodi, però chiedo conferma ad Andrea Sorrentino, inviato di Repubblica, che l'ha appena vista da San Siro. Ciao Andrea. Ciao Carlo, buonasera a tutti. Sì, ha vinto ovviamente la squadra più quadra, la squadra con maggiore personalità, la Juventus, che soprattutto con la personalità dei suoi centrocampisti credo abbia vinto questa partita, perché era proprio, secondo me, impietoso il confronto di personalità e di tecnica e di organizzazione tra i blocchi di centrocampo. Quello dell'Inter era un po' così, un po' naif. Sì. Con Andrea, Alba, scusami, ti va di sentire insieme a me le prime battute di Stramaccioni? Vai, con vai. Sky, perché comunque ha trovato un gran gol con un tiro da fuori, quei tiri che si alzano e si abbassano da 25 metri, o comunque ha fatto un gran gol e probabilmente sicuramente ha messo la partita su un binario per loro ottimale. Però io penso che poi l'Inter, comunque, anche se ha fatto molto meglio nel secondo tempo, nel primo tempo ricordo il contropiede di Vidal che si è presentato a tu per tu con Handanović, insomma, poi non è riuscito a concludere. Noi abbiamo avuto due occasioni secondo me importanti, una con Palacio, una ha fatto credo una grandissima parata a Buffon, adesso non l'ho rivisto, sul tiro di Cassano dalla panchina mi sembrava, sì, che non so se l'ha sfiorata o comunque se l'ha toccata, ha fatto una grandissima parata, altrimenti si è andata fuori e è uscita di poco. Adesso secondo tempo tutto? Mi sembra abbastanza onesto Stramaccioni, Andrea. Sì, ma in partita come questa non puoi che riconoscere la superiorità complessiva dell'avversario. Poi l'Inter ha messo in campo quello che aveva, e cioè l'orgoglio, perché oltre quello l'Inter non riesce ad andare quest'anno nei grandi confronti. Ha messo l'orgoglio, ha provato questo finale tutto cuore con quattro attaccanti in campo, ma poi alla fine non è riuscita mai a davvero impensierire la difesa della Juve, mentre proprio le coste difensive dell'Inter, secondo me, hanno evidenziato il gap tra le due squadre, che adesso è di 21 punti in classifica. Ranocchia e Kivu, soprattutto, a parte Samuel che era rientro, hanno grosse responsabilità sul secondo ma anche sul primo gol. Quindi quando regali episodi di questo genere a un grande avversario hai poche speranze. E direi che l'emblema della partita dell'Inter, forse della sua stagione, sta proprio in quel fallo brutto di frustrazione, di cambiasso proprio sul fischio finale dell'arbitro, che simboleggia un po' la resa dell'Inter di fronte a un avversario storico. Sì, tra l'altro mi sembra che la Juventus arrivi in condizioni perfette, no? Al momento clou anche in Europa. Tra l'altro so che si alleneranno domattina e subito dopo partiranno per Monaco e Baviera. I giocatori non hanno preso benissimo, dicono, questa decisione di Conte, ma tant'è, mi sembra una Juventus in grandi condizioni fisiche. Sì, perché è stata anche bravissima proprio nel gestire le proprie forze durante questa partita, perché non è stata una Juve travolgente. Loro hanno aggredito la partita, hanno segnato il loro primo gol subito, poi hanno gestito, a tratti è sembrato anche che non riuscissero, non volessero inserire o che giocassero con eccessiva prosopopea, infatti sono stati finiti dal pareggio bellissimo di Palacio. Però poi appena hanno preso l'1-1 si sono rovesciati di là, c'è stata un'occasione per Padoin, c'è stato il bellissimo raddoppio, insomma una Juventus molto molto presente a se stessa e che va a Monaco a questo punto davvero con qualche chance in più, secondo me. Mentre l'Inter deve rassegnarsi ad un campionato di rincorsa impossibile al terzo posto e a questo punto di piazzamento onorevole, quarto, quinto, centrale l'Europa League, che non so se batterà Stramaccioni a questo punto. Io penso di no, ma poi sai, Stramaccioni è in discussione una domenica sì e l'altra no, una domenica sì e l'altra pure. È impressionante comunque notare come esattamente un girone fa, con la vittoria dell'Inter a Torino, ci fosse un punto di distacco tra queste due squadre. E questo fa impressione. E adesso ce ne sono 21, anche se l'Inter deve recuperare una partita. Il problema di Stramaccioni è quello degli ultimi allenatori dell'Inter. Guardate, Moratti, da un mese, se gli chiedi cosa deve fare con Stramaccioni a fine stagione, lui dice: penso che lo terrò. Sì. E io vi garantisco che seguo l'Inter da qualche anno. Quando Moratti inizia a dire penso che, credo che, il destino di quell'allenatore, secondo me, è abbastanza a rischio. Ecco, sì, però poi va letto nei condizionali, insomma. Grazie, esatto, grazie sì. Andrea, buon lavoro. A voi, ciao. Grazie ad Andrea Sorrentino, inviato di Repubblica. Adesso però aspetto voi, ho voglia in questo sabato, con un tempo da lupi, altro che Pasqua, di parlare con voi. 800 24 00 24. Domenico Napoli, buonasera. Buonasera, senta, buona Pasqua per prima cosa. Certo, buona Pasqua a tutti. La cosa è che la dico che il collega, amico che abbiamo ascoltato adesso, ha fatto una grandissima analisi con praticamente il fatto di Moratti, che dice che lui terrà il povero Stramaccioni, ma io penso che l'allenatore dell'Inter l'anno prossimo sarà Mazzarri. Non lo so. Che ne certo penserai? Non lo so, però è una squadra certamente ridotta ai minimi termini. Povero Strama, ma ha perso per strada giocatori importanti. Questa, chiaro, non può essere tutta la lettura della stagione dell'Inter. Però oggi rientrava Samuel, che è insieme a Milito, secondo me, il giocatore più importante della squadra. Insomma, delle attenuanti ce le ha Stramaccioni. È chiaro che l'Inter non può accontentarsi di un onorevole piazzamento in classifica in campionato, anche perché c'è il discorso economico, la mancata qualificazione alla Champions League credo sia davvero molto pesante da assorbire per un club che ha cercato di fare economia nelle ultime stagioni. Poi Mazzarri vedremo, si dice così, però non ne sono ancora del tutto convinto. Sentiamo ancora cosa sta dicendo Stramaccioni prima di Davide, provincia di Mantova. Stramaccioni: l'Inter doveva fare era questa, e anche il primo tempo, ripeto, purtroppo Quagliarella ha pescato il jolly e ha fatto un gran gol, ma le occasioni, le due di Palacio, l'occasione quindi di Cassano. Avete forse, Andrea, avete forse limitato un po' meno bene Pirlo nel primo tempo, nel secondo tempo vai riuscito meglio. Sì. Mi interessava una tua opinione su Kovacic, che aveva un ruolo molto, molto importante nell'Inter oggi, secondo me. Sì, ma infatti la chiave è un pochino, secondo come l'ho giudicata io da allenatore, della nostra sofferenza nell'avvio del primo tempo è stata che comunque i nostri due centrocampisti centrali spesso per eccesso di generosità andavano fuori, molto fuori con i loro due interni, invece come sono rimasti più in posizione centrale sicuramente l'interpretazione è stata migliore. Io credo che Kovacic rappresenti il futuro del centrocampo dell'Inter, ha fatto anche in una partita così un ragazzo di 18 anni, io ho grandissima fiducia in lui, non ho avuto dubbi a schierarlo e lui sta crescendo di partita in partita e ripeto, quello che di buono c'è è che mi fa comunque la cosa positiva è aver giocato una partita positiva dopo Tottenham, adesso continuiamo così perché in questo momento bisogna solo far punti già da mercoledì con la Sampdoria. Va bene, questo Andrea Stramaccioni, poi sentiremo altre voci ma mi auguro anche le vostre. 800 24 00 24, ripeto, numero verde per questo sabato di Pasqua in diretta e tutti siete convocati, anche Davide, provincia di Mantova, buongiorno, anzi buonasera. Buonasera e buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua, buio pesto. Anche mamma lì? Mamma mia. Anche lì? Che tempo c'è? Mamma, io sono in autostrada, orrendo. Piove che Dio la manda. Piove che Dio la manda, come se fosse arrabbiato con il mondo. Ma cioè, allora, tempo da gennaio, da turno della Befana più che da Pasqua. Sì, sì, esatto. Ascolti, io sono un tifoso milanista, premetto, sì. E mi sono visto con i miei amici interisti viventi nella partita oggi. Sì. Ma io mi domando una cosa, ma Stramaccioni è in grado di fare l'allenatore? Madonna, che fallo che ha fatto Cambiasso. Mi vengono i brividi. Brutto. Ma mi vengono mi vengono i brividi, è entrato dritto sulla caviglia di Giovinco, che insomma spero che non si sia fatto male in maniera camminava alla fine. Sì, ma ha fatto un fallo terrificante. Dica, l'ho interrotta allora, su questa bruttura. No, ma si figuri. Dica. Allora, innanzitutto, Alvarez, schierato Alvarez primo tempo, una cosa obbrobriosa per il gioco del calcio Alvarez, e non mettere o Cambiasso o Guarini, primo. Sì. Secondo, un Pereira che veramente sembrava il difensore della Paganese, con tutto il rispetto per la Paganese. Padrita, praticamente preso in giro tutta la partita, sì. Ed era da buttare fuori Pereira, ricordiamolo. Pensi che a me Pereira non è un giocatore che non dispiace neanche. Certo che in questo casino si perde, è un giocatore arrivato ora nel nostro campionato, non ha grandissime doti tecniche e questo lo sappiamo, però non è un giocatore che ovviamente non da grande protagonista, però è un giocatore che io per il futuro rivedrei. È chiaro che quest'Inter così com'è improponibile, poi Guarin lo sappiamo, non ha giocato perché è stato in giro per il mondo come molti altri, peraltro non solo quelli del Napoli, ma come molti altri giocatori è rientrato in ritardo. Cambiasso, insomma, non lo so, visto quel fallo mi viene anche da dubitare sulla sua condizione, perché anche un giocatore così esperto, così anche cavalleresco in campo, all'ultimo istante di una partita entra in quel modo, insomma, mi mette dei dubbi sulla sua condizione. È evidente che non c'è stata partita, soprattutto in quel centrocampo, in quel confronto di centrocampo. Pier Giovanni da Verona, 800 24 00 24, buonasera. Io sono appena uscito dallo stadio. Quale stadio? Milano? Scusa, Milano, sì. San Siro. Sono okay. E con un po' di dolore da interista, però dico, faccio questa riflessione: non mi è piaciuto l'arbitraggio. Sinceramente l'arbitraggio secondo me ha condizionato molto una tensione che chiaramente per una partita così importante c'era, però l'arbitro non è stato all'altezza di gestire le tensioni che erano scontate in una partita del genere. Questa è la mia riflessione. Sì, però Pier Giovanni, prova a dimenticare l'arbitro, lascialo stare. No. Secondo me la partita tra le due squadre è stata impari. Ma allora ammetto che l'Inter era sottotono e lo è perché oppure la Juventus ha giocato molto bene, poi condizionata la partita dal gol in apertura a freddo di Quagliarella, mettiamo anche pure questo nel conto, no? Questo indubbiamente, però anche quel fallo di mano sotto area, neanche fischiato, lasciato perdere, non può non essere motivo per caricare ancora più tensione all'interno della squadra. Ed era agli inizi della partita, cioè non ci sta una cosa del genere. E poi troppi falli lasciati andare sulla Juve, fischiati continuamente sull'Inter. Non, non, non è stato bello da vedere un arbitraggio così per me. È ovvio che è una partita carica di tensione già di suo, molto difficile da arbitrare, considerato anche il campo su cui si è giocato. È chiaro che gli interisti escono da questa gara scontenti, possono reclamare per quel braccio di Bonucci, ho visto anche un braccio di Zanetti, c'è stato un contatto su Cambiasso, è stata una partita molto dura, e nelle partite molto dure è quasi scontato che insomma le squadre che ne hanno meno nelle gambe escano un po' penalizzate. Mettiamoci anche questo nel conto, cioè se si gioca una partita dura, chi ne ha meno arriva secondo sul pallone, chi ne ha meno fa notare anche di più una conduzione arbitrale di questo tipo. Tutti convocati. Allora, Flaviano da Monza, Andrea da Trento, vi chiedo un attimo di pazienza perché per un sabato speciale abbiamo un ospite speciale come Franco Arturi, anime core, se mi permetti di dirlo, alla napoletana della Gazzetta dello Sport, oltre che vice direttore. Buonasera. Ciao a tutti. Ascolta, io ho definito orrendo il fallo di Cambiasso su Giovinco, poi mi dicono che orrendi saremo noi, che è brutto, ma ha subito capito la cazzata che ha fatto e tutto deve finire lì e siamo degli sciacalli. Non lo so, io parlo con un sacco di interisti che se la prendono con Rizzoli, io guardo la partita e dico, secondo me la Juventus ha dominato. Sì, devo dire che è stata una Juventus che non ha messo tutta l'intensità di cui è capace, ma lo squilibrio sul piano del gioco e anche della qualità media era del tutto evidente. Non vedo perché non si possa... Cambiasso si è reso conto di aver fatto un orrendo fallo e ha chiesto scusa. Orrendo resto. Certo. Secondo me è stato un fallo raccapricciante che mi fa dubitare anche della condizione atletica di quest'Inter e di Cambiasso. Cioè, voglio dire, mi sembra che il confronto anche sul piano atletico sia stato impari, e questo forse ha sottolineato l'arbitraggio di Rizzoli, che è stato, diciamo all'inglese, gli interisti non saranno contenti, ma pazienza, no? Ma francamente non vedo perché. Io ho visto un probabile rigore di Handanovic nel primo tempo, sì. Ho visto un probabile rigore su Cassano nel secondo tempo, non ho visto interventi arbitrali che abbiano potuto modificare il senso della partita. Insomma, l'Inter ha dimostrato tutti i suoi meriti stagionali, è una squadra che sul piano motivazionale dell'orgoglio c'è sempre, ma ha mostrato anche tutti i suoi limiti. Ancora una volta Stramaccioni, che sembra incaponirsi nei suoi errori, ha ritirato fuori la difesa 5 a sorpresa, ha modificato per l'ennesima volta la squadra nel secondo tempo. Questa è una squadra che non ha certezze tattiche e si affida unicamente alle fiammate del suo orgoglio. Dall'altra parte c'è una squadra che di certezze ne ha tante, come per esempio i movimenti delle due punte, che sono magiche, del tutto simili a quelle di Ventura, come giustamente è stato fatto rilevare. Il primo gol è un piccolo capolavoro, per esempio. Sì. Direttore, la corsa tra il Napoli e il Milan, come la vedi? Da Napoli, secondo me, arrivano anche segnali di nervosismo. Questo lamentarsi perché i giocatori vanno in giro per il mondo vale per tutte le grandi squadre. Io credo che per una squadra che è in corsa ancora, ovviamente, per il secondo posto, anzi, che ha un vantaggio per il secondo posto, non sia un grande segnale. No, di sicuro, cioè sono polemiche fine a se stesse, sì. Cioè che di cui tutti sanno tutto, nel senso che conoscendo i calendari internazionali, conoscendo le rose, sì, esatto. È evidente che così si fa. Vale per tutte le squadre, vale per l'Inter, vale per la Juve, vale per il Napoli, vale ovviamente per il Milan, che schiererà tutti i suoi nazionali in campo, eccetera. Sono cose che non hanno senso, che servono spesso a distogliere attenzioni, ma credo anche energie da quello che è poi il campo. Lanciamo insieme un appello per chiudere, direttore, che a Verona non si torni a ululare nei confronti di chi ha... di Balotelli o di chi per esso, come successe qualche anno fa? Naturalmente sì, nei confronti di chiunque sono gesti incivili che naturalmente ci auguriamo che non vengano effettuati, che non si senta niente di questa categoria. categoria non di pensiero ma di barbarie. Grazie direttore, buon lavoro, grazie come sempre. Grazie a Franco Arturi, vice direttore della Gazzetta dello Sport. Allora Flaviano da Monza, grazie per l'attesa invece. Non c'è problema. Comunque complimenti a lei per la trasmissione e come la gestisce soprattutto. Grazie. Allora, per quanto concerne l'Inter-Juventus, allora io mi auguro, Stramazzoni secondo me sta facendo dei miracoli, no? Per la rosa, con tutto rispetto di tutti che si ritrova, no? Con rispetto di tutti. E mi auguro che guardino già come, non dico rifondare, ma quasi rifondare l'Inter. Sì. Oggi ha fatto il massimo e Stramaccioni ci mette sempre di più, io lo vedo molto bene Stramaccioni. Poi per quanto concerne il Cagliari, c'è veramente da fare dei complimenti alla società, ai tifosi, ai giocatori, all'organizzazione, perché stanno facendo delle cose eccezionali. Sì, perché ci troviamo in un paese terzomondista, si giocano le partite a porte chiuse, non si sa quando si riaprono. Mi auguro che Cellino, l'amico Cellino, risolva prima possibile le sue cose, e gli auguro ragazzi di fare una carriera molto molto importante, che è un bravissimo ragazzo. Sì. Poi chiudo, sì, dica, così. Dica. Per quanto concerne il Palermo, io le ho mandato un messaggio a Zamparini e gli ho detto hai fatto bene a far ritornare Sannino, con rispetto sempre di tutti gli altri, che se gli dà fiducia a Sannino, secondo me, e se i giocatori lo seguono come ho visto oggi, secondo me ha delle buone chance per venire fuori da questa situazione molto Non so se Sannino, grazie Flaviano, non so se Sannino o dei meriti altrui, ne ha cambiati talmente tanti di allenatori che insomma mi diventa anche difficile leggere così la mano di Sannino anche in una partita come quella di oggi contro la Roma. Io ho visto degli errori, due madornali errori difensivi della Roma sui due gol del Palermo. Poi è chiaro che con questi risultati il Palermo è in piena corsa, perché il 2-2 tra Genoa e Siena dice che il Palermo è praticamente ora a 3 punti dalla salvezza. Andrea Trento, buonasera. Salve, buonasera a lei. Io volevo sapere il suo parere su una questione molto semplice. E dopo aver fatto una piccola promessa, l'avevo già chiamata ancora nel girone di andata, parlando della Juventus e delle qualità secondo me dell'asse centrale legata a Buffon, Barzagli, Pirlo e soprattutto Vidal. E soffermandomi su Vidal, ho sempre detto, sostengo che sia sicuramente l'acquisto che ha fatto girare la Juventus in una maniera, dopo Conte, con la determinazione dell'allenatore, che ha fatto girare la Juventus in una maniera mostruosa, che fa fare anche strada in Champions. Sì. Ma secondo lei? Ma lei si ricorda, Andrea, così per la cronaca, si ricorda insomma, Conte non è che lo vedesse tanto di buon occhio l'acquisto di Vidal, che probabilmente non aveva avvallato all'inizio. Io mi ricordo quella amichevole proprio con il Milan, mi pare fosse Trofeo Berlusconi, era ancora estate, agosto, eccetera, in cui lo fece giocare esterno destro. Cioè, se volevi sottolineare come un giocatore come Vidal ti era sgradito, lo fai giocare esterno destro, perché è evidente che quella non è la sua posizione. Poi ovviamente lo ha convinto, no? Si vede. Ma certo, ma appunto, premesso questo, io non capisco le voci che danno una cessione di Vidal per una grande punta. Cioè, era come, io sono un tifoso milanista, era come vendere Rijkaard al tempo dei tre olandesi. Cioè, a mio modo di vedere, Gullit grande, Van Basten immenso, però Rijkaard faceva girare la squadra come un pendolo, e pensare di vendere Vidal per un altro giocatore perché manca la vera punta, onestamente mi sembra come se la stampa prendesse un po' per i fondelli la gente che legge i giornali. Ma queste sono tutte chiacchiere che si fanno, non so quanto sia così opportuno dare conto a questi discorsi. Vedremo, insomma, siamo a marzo, anche se sembra gennaio, vediamo a fine stagione. Secondo me sono giusto chiacchiere, Andrea. Sentiamo una battuta di Matri con Sky. Continuità a tutti. Sì, è una cosa che comunque penso che c'è da tutto l'anno. Questa è che l'attaccante è sempre il primo ad essere cercato, il grande campione. Forse qua grandi campioni sono grandi professionisti che si mettono a disposizione della squadra e lavorano tanto sia in settimana che la domenica. Ecco, adesso si fa già il conto per chi sarà a giocare, chi vi giocherà a Monaco. Noi diamo per scontato Vucinic perché oggi è riposato. E poi quanto state fremendo per giocare una partita così importante con lì davanti? Ma è una partita che tutti vogliono giocare, quindi se mi chiedete se la voglio giocare vi dico di sì, è ovvio. Però spetterà il mister, come sempre. Noi lavoreremo in settimana cercando di convincere il mister. Settimana certo corta, perché si gioca la Juventus, come ho detto prima, si allenerà domani mattina e poi domani sera già partirà per Monaco di Baviera. Ripeto, decisione di Conte, pare che i giocatori non l'abbiano presa benissimo. A mio parere Vucinic Matri è la coppia meglio assortita tra quelle che può schierare Antonio Conte, però questa è una mia opinione. Massimo Modena, buonasera. Condivido, buonasera. Vi faccio i complimenti anch'io per la trasmissione. Grazie. Io mi chiedevo una cosa, i tifosi interisti hanno una TV particolare per guardare le partite? Io ho guardato su Sky, ho un po' Sky, ho un po' Mediaset, ma io ho visto tutta un'altra partita, non capisco. Sì. Come fa a vedere un tifoso che è allo stadio, che Bonucci ha toccato con un mignolo la palla in area, dopo che alla Juve non è stato concesso un rigore contro il Genoa con una parata clamorosa? No, Massimo, mi permetta, facciamo così. Sì. Prego. Se lei parla da tifoso, perché evidentemente è tifoso juventino, anche l'interista oggi deluso, arrabbiato, parla da tifoso, certo. quindi questo è normale. Io rispetto, anzi, io penso anche che il fallo di Cambiasso è stato molto brutto, ma io non vedo Cambiasso, non ho visto nell'intervento di Cambiasso eccessiva cattiveria. No, ma nemmeno io, però un fallo, quindi non è che sono juventino, giustamente, sì. Però seguo le partite, io non ho visto un arbitraggio scandaloso. Ma non so dirle, nemmeno io l'ho visto, ma nemmeno il direttore della Gazzetta, del vice direttore Franco Arturi, nemmeno Andrea Sorrentino, che era allo stadio, dove peraltro si ha un senso diverso delle partite. Io, come lei, l'ho visto in TV, sono qui e quindi ho le stesse sensazioni. Poi però, ripeto, il tifoso interista esce deluso, arrabbiato, se la piglia con Rizzoli, c'è qualche episodio qua e là, e lei se l'è presa con, non mi ricordo quale episodio relativo alla Juventus. Tutto questo, a mio parere, fa parte del gioco. Tutti convocati sì, in questo sabato di Pasqua, in cui si è giocato e si giocherà alle 18 il Milan a Verona, questa sera Napoli a Torino in Serie A. 800 24 00 24. Luca Milano, buonasera. Sì, buonasera, mi sente? Sì che la sento. Innanzitutto siamo alla bellissima trasmissione, io la seguo sempre, quindi sono contento. Grazie. Di collegarmi. Siamo tutti tristi, ma siamo quattro interisti in macchina usciti dallo stadio, bagnati. Bagnati e dico e arrabbiati, perché è quasi Pasqua, no? Però le devo dire che sono d'accordo con l'ultimo intervento, cioè non c'è stato un arbitraggio particolarmente scandaloso contro di noi. Noi eravamo dall'altra parte, mi è sembrata un po' la spinta su Cassano in un'azione verso la fine, però... No, quel contatto di ginocchio? Ma non l'avevamo messi male, quindi non ci giurerei. Io però chiamo per un altro motivo. Dica. Cioè, oggi purtroppo abbiamo la testimonianza che abbiamo fatto una campagna acquisti negli ultimi anni veramente ridicola. Io non penso che Stramaccioni abbia grosse colpe, anche se insistere su Alvarez siamo tutti piuttosto delusi e non lo capiamo. Però io ricordo al presidente Moratti, e qui siamo quattro tifosi in macchina, suoi grandi tifosi, che la più grande campagna acquisti l'ha fatta Roberto Mancini 5-6 anni fa. Il grande coup de théâtre di quel fenomeno di Ibrahimovic, che se ne vuole andare dall'Inter perché non vinceva la Coppa dei Campioni, ci ha permesso di fare un miracolo. Il grande colpo fu quello, no? La costruzione della squadra del triplete con quello scambio. Infatti, Ibrahimovic più una vagonata di soldi per Eto'o. Perfetto. Viva Ibrahimovic per sempre, sia per il 2-0 a Parma e sia per questo cubo di teatro. Sì. Però io dico, noi avevamo una grande primavera, che l'anno scorso è stata veramente forte. L'ho detto recentemente, ricordato il presidente, a una serata. Bastava prendere quella squadra lì, metterla insieme a Cambiaso, Zanetti, Milito, Palacio, Guarin e Andanovic, e l'Inter era più forte. Eppure strano che Stramaccioni, che arriva appunto dai settori giovanili, non abbia forse creduto in questa squadra. Poi io non sono così d'accordo nel Cambiasso e Zanetti e tutta la vecchia guardia. Questa è una squadra che va rifondata, e secondo me è logico fare come ha fatto il Milan, che ha detto: vabbè ragazzi, Seedorf, Nesta, Inzaghi, grazie mille Gattuso, grazie mille, vi vogliamo bene, cambiamo pagina. Ecco, non è soltanto una questione di uno o due giocatori, è questione di far entrare dalla finestra aria nuova e giocatori diversi. È chiaro che quest'Inter di giocatori su cui rifondare ne ha pochini, l'Inter attuale. Allora, forse sta parlando Petkovic, che è tornato a vincere con la Lazio. No, qui stiamo riguardando i gol, però insomma, poi se riesco ve lo faccio sentire Petkovic, perché insomma, la Lazio non vinceva da un secolo, e oggi è tornata in rimonta e nel finale alla vittoria sul Catania. Matteo Milano, buonasera. Sì, buonasera, sono Mattia, sono appena uscito dallo stadio. Io ho visto la partita, sinceramente siete stati un po' troppo cattivi secondo me sull'Inter. Va bene, perché... Matteo, adesso mi fa un favore, mi abbassi un pelo, mi abbassi la radio, perché sennò ritorno in cuffia. Grazie, dica. Volevo dire che io ho visto la partita e molto spesso seguo la vostra trasmissione, sì. Sono tifoso dell'Inter, però prima di tutto sono sportivo. Io non ho visto sinceramente una Juve così straripante dell'Inter. Certo, è una squadra che gioca molto più di squadra, perché comunque hanno un organico nettamente superiore al nostro, e noi è vero che ci appoggiamo soprattutto troppo ai singoli, però secondo me avete analizzato anche troppi episodi contro l'Inter. Io citerei anche vedere molto, per esempio, il rigore su Kovacic e la situazione su Cassano non avete neanche parlato, per favore. L'abbiamo fatto ora. Sì, ho capito, però è vero, il fallo di Cambiasso bruttissimo, ci sta, però secondo me l'Inter non ha fatto una così brutta partita, la sta anche mettendo sul piano troppo storico. Io ti ringrazio e ti invito ad intervenire quando vuoi, da lunedì al venerdì, quando ti pare. Non mi sembra un processo all'Inter, non mi sembra che la Juventus sia stata straripante. La Juventus ha giocato da Juventus, ha una condizione nettamente migliore rispetto a quella dell'Inter, è più forte dell'Inter, e oggi si è visto in campo. Ripeto, il gol di Quagliarella dopo 3 minuti è stato un grosso vantaggio per la Juventus, ha indirizzato questa partita, però se continuiamo a polverizzare in episodi la lettura delle partite, non ne usciamo mai. Io, leggendo la partita, guardando la partita, ho visto una Juventus che l'ha sempre tenuta in mano. Meraviglioso il gol di Cambiasso, di Palacio, abbastanza un lampo nel buio. Poi per il resto c'è stato un dominio netto, secondo me, della Juventus a centrocampo. Questo non vuol dire che sia stata straripante, semplicemente ha controllato questa gara. Sta parlando Petkovic, allora eccolo qui con Sky. Ma io sono contento, per prima volta come ho visto giocatore, e sicuramente può solo crescere. Dopo averlo giocato all'andata, il derby è ancora una partita come le altre anche per lei, visto che si giocherà lunedì prossimo? Ma abbiamo fortuna di avere ancora una partita prima di derby, così che lasciamo fino a venerdì prossimo di tempo per concentrarsi su questa partita, ma sicuramente saranno tutte queste che arrivano adesso partite importanti, partite belle, cercheremo tutte e faremo tutto per vincerli. Grazie. Questo è l'allenatore della Lazio, Mirko da Mantova, e poi Guido da Milano. C'era forse prima Guido in ordine di prenotazione, no? Guido, buonasera. Sì, buonasera, sono Guido, sono un genovese, da 50 anni a Milano, sono interista genuano. Sì. Io sono qua proprio sotto San Siro, ero a 5 metri da Moratti e famiglia. Io dico, ma questo Stramaccioni qua, io dico, ci andiamo io e lei a allenare, ma non capisce che la squadra da anni dell'Inter che non passano la palla di prima come fa la Juventus, hanno la mania tutti di scartare, e quello faccio da scimmia che ha, quello lì, come si chiama, terzino sinistro, che Però Mirko, allora, faccia da scimmia se lo tiene per lei, però, per favore, perché se si riferisce ad Alvaro Pereira, questa è una definizione che è brutta, che è molto peggiore rispetto al fallo di Cambiasso, che almeno per certi versi è scusabile, questa definizione no. Poi non si tratta di passare l'Inter la palla di prima, non si tratta di tutte queste robe che secondo me sono relative. È una squadra da ricostruire, ripeto, ed oggi il confronto con la Juventus è stato impari. Poi su tutto il resto facciamo scendere il sipario. Grazie. Guido da Milano era questo, Mirko da Mantova invece è il prossimo, e speriamo in definizioni un po' più consone, no? Volevo anche riagganciarmi col mio discorso, anche la telefonata di prima. Infatti io telefonavo per rimarcare come purtroppo in Italia ci facciamo sempre distinguere nel senso negativo, e la cosa infatti che volevo rimarcare è che non passa domenica che ci siano tifosi di squadre che hanno all'interno loro dei giocatori di colore che i loro tifosi osannano, che poi quando arriva la squadra avversaria che ha anche lei dei giocatori di colore li insultano e li denigrano in continuazione. Anche oggi ho sentito, guardando le partite in TV, commenti di alcuni telecronisti che commentavano giocatori insultati quando poi la loro stessa squadra di questi tifosi ha sempre giocatori di colore, quindi io dico proprio civiltà zero, ma anche ignoranza assoluta. Sì, vabbè, questa sì. Anche se ritengo che insomma che ci sia molta demagogia in tutti i discorsi che si fanno sul razzismo in giro per l'Europa, per il mondo, eccetera. Si tratta, come dice lei, di ignoranza. Sono purtroppo fenomeni cui insomma siamo crudelmente abituati, e ha detto bene, non mi ricordo più chi, Gullit, in una intervista di qualche tempo fa sul Corriere della Sera, o se non ricordo male, ebbene diceva: vabbè, razzismo c'è in Italia, c'è purtroppo in altri paesi, l'ignoranza c'è in Italia, c'è purtroppo in altri paesi, però non dimentichiamo come voi siete specializzati in questa materia, perché tra nord e sud questo tipo di inciviltà è sempre stata molto evidente, e sto cercando un giro di parole molto largo, ma avete capito perfettamente cosa mi riferisco. Vediamo se facciamo in tempo a sentire una battuta di Cambiasso, o anzi no, preferisco un altro ascoltatore. Cambiasso lo sentirete dopo nei... Carlo! Ciao, salve, buonasera. Ciao. Senti, volevo dire che chiaramente io non sono un tifoso della Juventus, però devo dire che stiamo rivedendo un calcio di un certo livello, ed è una buonissima notizia per gli amanti del calcio. Anche l'Inter, con delle difficoltà, ha tenuto il campo con un certo tono, e io dico che quest'annata, a prescindere dalla partita odierna, che in ogni caso, visto da una persona non tifosa né dell'una né dell'altra squadra come me, è stata una bella partita, quindi sì, è un segnale è stata importante per il calcio italiano. Sì, ma è stata una partita piuttosto divertente. Io spero che un buon segnale per il calcio italiano arrivi dalla Juventus e dalla Lazio sui campi europei. Questo mi sembra il miglior modo per salutarvi e per augurarvi buona Pasqua. Grazie a tutti, Benedetta Acri in redazione, Pietro La Corte in regia, Rosa al centralino. Ci sentiamo lunedì con tutti i convocati. Buona Pasqua a tutti di nuovo.